Pronto? Pronto, ciao Alessandro. Ciao. Ciao. Giorgio e Francesca. Ciao, benvenuto. Ciao, piacere. Grazie. Come stai? Bene, bene, tutto a posto. Ma va bene. Noi volevamo sapere da te innanzitutto che rapporto hai con la città di Bologna. Sappiamo che tra un mesetto sarai ad Oltre Festival, quindi nella nostra città. E ci hai mai suonato? Sei mai venuto? Insomma, dici un po'. Allora, Bologna, allora, forse non ci sono mai stato neanche di persona, proprio mai nella vita. Poi vabbè, ovviamente Bologna per me vuol dire rap, assolutamente, quindi da Inoki, certo. Non so, il remix dei One Mic di Bolo by Night, cioè tutta storia. Ovviamente Bologna. Grande. E adesso beh, anche Draft God sinceramente lo apprezzo, anche lui di Bologna. E nulla, quindi beh, sarà una super prima sarà, volta sarà un'esperienza allora. Nuova sì infatti, cioè, vado la prima volta a Bologna e ci vado a suonare, quindi senti, noi bello, ci tenevamo un sacco a questa intervista. Io ho assillato Cocchi perché il tuo disco ci è piaciuto moltissimo e l'abbiamo trovato molto vero e una cosa di cui c'era tanto bisogno, e in particolare il tema del carcere che non viene trattato, no? Negli argomenti cool e che vanno tanto di moda adesso, diciamo che non è una cosa che trova molto spazio. E in particolare per questo ti volevo chiedere, secondo te, insomma, è difficile parlare di queste cose e soprattutto che cosa, non so, che cosa consiglieresti ai ragazzi che magari vivono il carcere, no? Per avere la spinta per fare una cosa come quello che stai facendo tu, una cosa artistica, quindi. Guarda, la cosa brutta cioè, di questa domanda è che io ti posso dare una risposta che però non verrà ascoltata da chi effettivamente ne ha bisogno. Nel senso che comunque in carcere cioè, questa intervista non arriverà, certo. E in generale è anche difficile che arrivi la mia musica. Cioè, adesso io sono famoso, diciamo, però cioè, ovviamente non c'è internet in galera. Guarda, ti posso dire che è venuto un ragazzo, scusa se magari sto divagando un attimo, però no, posso spiegare un secondo. È venuto un ragazzo al store che ho fatto a Roma, mi pare, e ha preso il mio disco e mi ha chiesto di autografarlo per un suo caro amico che era attualmente in carcere. E quindi diciamo, anche queste piccole cose comunque possono aiutare. Io comunque quando ero dentro io ho fatto tanto affidamento su chi era fuori, no? Chi mi portava i libri, chi mi portava i CD. E poi sul fatto che se ne parli poco, non so, da una parte è un bene, nel senso che comunque il rap, cioè almeno a mio modo di vedere, deve essere una cosa che uno fa in modo sincero. Non sono tanti ragazzi che hanno vissuto questa esperienza e che poi vanno iniziano a fare rap, quindi io ne parlo perché l'ho vissuto, non è né una scelta diciamo, studiata, nel senso per fare lo scalpore o comunque fare denuncia sociale, nel senso proprio io l'ho vissuto e quindi ne parlo. È una cosa che mi ha segnato tanto e quindi ne parlo tanto. Assolutamente. Ma guarda, direi che la parola chiave veramente è una sincerità a volte spigolosa, no? Quando ti ascoltiamo ci vengono in mente queste cose, cioè una violenza a volte appunto sincera a cui forse non si è pronti. Io volevo chiederti questa cosa, hai fatto un concerto che ci è piaciuto da pazzi al Miami, come hai vissuto grazie. Però la scelta di Carlo Pastore di ospitare Emma Bonino su, insomma, in un festival musicale? Io non so sinceramente chi cazzo di Emma Bonino. ti posso raccontare un episodio legato a questa cosa. Allora io non voto, vero, lo sapete tutti, però sì. C'era un mio caro amico che io non so come si pronuncia il nome del gruppo, comunque tipo 72 Hour Post Fight, okay. Non so se avete, ok, non suonava mi pare, però era presente nel backstage perché abbiamo amici in comune. E lui mi ha detto, ha sentito questo tipo qua che parlava e lui, cioè da buon cittadino è andato tipo, l'ha visto nei backstage durante la sera e gli ha detto tipo, finalmente qualcosa di valido da votare, voterò per lei domani all'Europea. E la tipa l'ha guardato malissimo, cioè, che non so che cazzo ha capito, c'era un po' di frastuono, magari ha capito male, ha detto guarda che ti prendo a schiaffi. Ma come? Giuro, ma adesso... No. È un caso, nel senso che almeno abbia perso un voto. Esatto. Come? Si è bruciato un voto così, la moglie. Neanche a voler far a dirgli del bene, capito? Incredibile. No, mio ragazzi, impazzisco. Va bene, hai reso l'idea. No, ma adesso a parte tutto, appunto, cosa ne pensi invece di chi cerca a volte con forza di fare musica militante, no? Cioè, a volte purtroppo non è una musica sincera quella che parla di temi scomodi, a volte lo si fa per fare quello fuori dall'ordinario. Sì, esatto, per attirare l'attenzione, comunque fare... guadagnarsi il rispetto, la simpatia anche, sì, esatto, di un certo gruppo di persone. Esatto. Mm-hmm. Però cioè io non ne penso, cioè nel senso non ho mai ascoltato quel tipo di musica, cioè so che esiste ovviamente perché comunque ascolto rap da tanti anni, è presente in questa cultura questo, mm-hmm, questo atteggiamento, però non lo so, guarda, cioè penso che sia una cosa totalmente inutile, nel senso l'arte si è sempre occupata di cose personali, cioè della vita, nel senso della vita nella sua forma più, cioè nel senso stretto, no? Cioè non poi tipo della politica, che è un aspetto della vita un po', mm-hmm, so, meno umano, cioè sì, un po' più artefatto, un po' più costruito, no? Esatto, sì, poi mi sembra un po', cioè, come strumentalizzare la musica, strumentalizzare l'arte. Guarda, è la stessa critica che hanno mosso nei confronti di Carlo Pastore, no? Cioè, chi ha detto che appunto la politica, mm-hmm, in un festival prettamente musicale non c'entri poi tanto. Quindi, però sicuramente il tuo aneddoto è stato quello di Carlo Pastore, cioè posso dire, c'è una roba che la prima volta che è passato il mio pezzo in radio era appunto, mi pare, radio, come si chiama, Radio 2. Sì. E c'era lui a condurre, e poi io mi sono scaricato tipo la puntata, c'era Sabbie d'Oro, mm-hmm, ha detto un sacco di belle cose su di me, quindi no. So, lo vedo un po' in modo positivo. No, ma anche noi, anche noi assolutamente. No, ma guarda, rido perché in realtà io sono più che sicura di aver mandato in onda dei tuoi pezzi prima, no? E rido perché addirittura una volta ti racconto una gag che ha fatto Giorgia. Abbiamo intervistato Riccardo, esatto. Sì, dei Pinguini Tattici Nucleari, è una giovane band indipendente, ora sono con Sony, vabbè, appunto per questo passaggio anche di label li abbiamo intervistati qui da noi, e lui a un certo punto, chiediamo sempre un brano da mandare in onda consigliato dall'artista a fine intervista, e lui fa: ah guarda, manda Sabbia d'Oro. Io l'ho interrotto, faccio: ma grande, subito in onda, mandiamo Massimo Pericolo. E lui: no scusami, era Ivan Graziani. No, però bella, tipo... per voi che avete pensato a me. Esatto. Io ci sono rimasta malissimo perché lo stavo per far mandare in onda. Ho detto: no raga, fermate tutto. No, è impazzito. È andata così. Me l'hanno riproposto su Instagram, registrato per non so quanto. È una figura di merda clamorosa, ma vabbè, me la tengo. Vado molto, molto fiera. Vabbè. Guarda Alessandro, torniamo a noi. Allora, noi abbiamo visto un po', cioè googlando il tuo nome, no? Cioè veramente chi a destra e a sinistra ti dipinge come la nuova rivelazione del rap, no? Mm. Ma come ti ritrovi in queste, insomma, queste cose, come posso dire, questi appellativi che ogni tanto sui magazine si trovano? Cioè cosa ne pensi di questi titoloni, no? Che ogni tanto la stampa si sente di affibbiare ai nuovi artisti emergenti? Guarda, cioè nel senso, queste due cose, nel senso, una che magari è tipo un po' quello che si fa sempre, no? Cioè se devi parlare di una cosa nuova cerchi comunque di pomparla, perché così la gente ti prende bene, no? Si incuriosisce. E poi c'è la parte più egocentrica di me che dice: no beh, se lo dico loro sicuramente così sono la nuova rivelazione del rap italiano. Cioè, però guarda, non ti sarebbe bello, cioè non so, guarda, ci spero di, ma peccato anche proprio per l'amore che ho per il rap, di dare un contributo grande, cioè proprio perché per me comunque il rap significa cioè, per me è stato un aiuto, no? Quindi è figo per me sapere che magari sto aiutando delle persone. Quindi ci possiamo aspettare qualcos'altro a breve, in futuro, magari, non lo so. Sì, no, io sto lavorando, cioè io mi sento miracolato, nel senso che comunque fino a neanche un anno fa, cioè, facevo una vita diversa da ora e non avevo veramente in mano nulla, non avevo una prospettiva sul futuro. Adesso grazie alla musica sta cambiando tutto. Bello. Cavoli, allora speriamo di sentire cose nuove molto presto. Molto molto presto, assolutamente. Guarda, Alessandro, vabbè, appena uscito il pezzo con Kedama, cioè, sì, vabbè, cose insomma in solitudine, in solitaria, anche se devo dire che questo mi è piaciuto abbastanza. Non ho ancora visto il video, che mi pare sia uscito ieri o l'altro ieri, ma il pezzo è molto molto bello, complimenti. E ultimissima domanda, volevo appunto chiederti qual è un brano che possiamo mandare in onda, tuo o non tuo, scegli tu, una cosa che ti piace. Che non sia Ivan Graziani, ti prego. Sì, perché sarebbe davvero eclatante. E neanche i Pinguini Tattici a sto punto, perché... No, aspetta, ok, no, io ho già in mente quello che... Cioè, non vorrei essere scontato, perché in realtà quando mi chiedono tipo il mio pezzo preferito... se non è quello, comunque è della stessa persona, ti dico, metti, chiedi alla Polvere di Marrakesh. Bene, infatti, perfetto. No, guarda, non ci aspettavamo nient'altro. Esatto. Una scelta lineare, perfetto. Alessandro, noi ti dico, dopo il live del Miami, ovviamente non vediamo l'ora che tu venga qua a Bologna, perché cioè siamo carichissimi, tipo. Assolutamente. E quindi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente, per stasera, intanto. Grazie a voi. Grazie mille. A presto. Ci vediamo a luglio. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.